In collegamento telefonico con Ottavia Nigris Cosattini, regista del documentario Lupo Nero, Lupo Bianco, viaggio nel gruppo Permacultura Sicilia, che sarà presentato al Teatro Quirinetta a Roma il 4 marzo. Ottavia, benvenuta. Ciao a tutti. Ci racconti un po' di questo lavoro? Allora, è stata un'avventura anche per me, nel senso che io non sono una documentarista di professione. Mi sono, diciamo, messa sotto per proprio una volontà di raccontare delle cose belle che avevo visto. Ho avuto modo di stare in Sicilia, insomma, per diverse occasioni, e sempre di più ogni volta che andavo, perché io organizzo eventi culturali e quindi ho avuto modo di andare in Sicilia a lavorare, diciamo, per la mia associazione, e in quell'occasione ho incontrato questo gruppo Permacultura Sicilia. Allora, di anno in anno, sempre di più, conoscevo sempre più persone, vedevo sempre più realtà, e a un certo punto quello che poi sarà diventato la guida di questo viaggio all'interno della Sicilia, che è Peppe Arena, mio amico, che quindi gli dicevo: ma Peppe, questa realtà bisogna raccontarla, le persone devono sapere che qua in Sicilia stanno succedendo delle cose belle qua e là. Finché a un certo punto Peppe giustamente mi ha guardato e ha fatto: senti Ottavia, se veramente pensi che questa realtà e queste cose vadano raccontate, raccontale tu, non aspettare che qualcun altro le racconti al posto tuo. E quindi questo è nato un po' da questa casualità, e in realtà fa parte anche un po' della coerenza del progetto, perché in qualche modo mi sono presa una responsabilità, ho deciso di mettere su tutta questa macchina e ho coinvolto mia sorella e mio fratello per accompagnarmi. Mia sorella è fotografa professionista, non cameraman, però almeno aveva, diciamo, abbastanza facilità con la macchina, e mio fratello invece ci ha aiutato più come supporto, diciamo, organizzativo logistico. Peppe Arena è stato proprio la nostra guida all'interno della Sicilia, quindi ci ha portato lui in alcune delle realtà siciliane e le abbiamo riprese, abbiamo fatto raccontare alle persone le cose belle che vivono, e diciamo che vuole essere un po' una delle tante alternative al sistema vigente. Ecco, Ottavia, ci racconti un po' come funziona questa permacultura? Allora, la permacultura, diciamo che da definizione Wikipedia, viene inventata negli anni 70 da Bill Mollison. In realtà Bill Mollison e Holmgren non hanno inventato quasi niente di nuovo. Hanno semplicemente studiato moltissimo per raccogliere tutte delle, diciamo, pratiche o delle buone abitudini che erano in realtà del passato. Quindi la permacultura non ti dice niente di realmente innovativo, realmente nuovo, ma è un sistema di progettazione che ti permette di progettare, diciamo, diverse cose. Quindi non è soltanto un metodo agricolo come, insomma, in tanti confondono, è proprio un sistema di progettazione che ti permette di progettare qualsivoglia cosa secondo delle etiche sane e dei principi che rispettano le persone, l'ambiente, la natura e questo pianeta. Quindi in realtà in agricoltura la permacultura, ovviamente, come sistema, diciamo, di progettazione, ha un riscontro immediato e funziona benissimo, e quindi viene applicata particolarmente in agricoltura, ma in realtà è un metodo di progettazione. Sì. Senti, quante persone più o meno sono coinvolte in Sicilia in questa pratica e in quali zone? Allora, quello che siamo riusciti noi a filmare, quindi anche per il tempo, diciamo, logistico, abbiamo visitato circa 18-20 realtà. In realtà più andavamo avanti e passavamo da una realtà all'altra, più ci accorgevamo che ce n'erano sempre di nuove, sempre aggiunte, appena nate, in realtà nate ancora prima, però non si conoscevano. Tanto che a un certo punto anche io ho chiesto: scusate, ma quanti siete realmente che praticano permacultura un po' a tutti i livelli, appunto, come ho appena detto, non solo a livello agricolo, ma anche a livello sociale? E la risposta è stata: beh, più o meno adesso abbiamo fatto una mappatura e siamo circa 400-450 realtà, che che a modo loro, ognuno nel proprio contesto, cerca di applicare la permacultura con le sue belle etiche, che a questo punto approfitto per dire, perché sono tre etiche molto semplici, quindi rispetto e cura della terra, rispetto e cura delle persone e condivisione del surplus. Quindi in realtà queste etiche sono molto chiare, molto facili e secondo me sono, diciamo, un punto di partenza molto bello per cercare di riprogettare le nostre vite, secondo dei principi un attimino più umani, ecco. Fanno rete a livello mondiale? Guarda, un po' meno a livello mondiale, per ora stanno costruendo una rete molto locale. Secondo me sicuramente una cosa che li ha aiutati è il fatto di essere in un'isola. Quindi hanno comunque questa idea molto più forte di, diciamo, a noi ci chiamano continentali, no? Quindi io appunto vivo a Roma, diciamo che per loro è più facile perché hanno comunque già una mentalità, diciamo, da isolani, che hanno bisogno di aiutarsi, di sostenersi, e quindi in realtà questa loro creare rete tra di loro gli è stata abbastanza più facile forse rispetto a Roma, Milano o altre realtà più dispersive, e quindi stanno cercando di diciamo, costruire molto bene la loro rete locale. Per quanto riguarda l'internazionale, sono ancora, diciamo, alle prime armi, però sicuramente fanno parte insomma, di reti internazionali come Gaia Education, Rive e quante altre, insomma. Perché lupo nero, lupo bianco? Diciamo che il documentario si apre con il racconto di questa leggenda Cherokee, in cui appunto il nipote indiano, nativo americano, va da suo nonno e gli chiede: nonno, ma perché dentro di me io sento delle forze contrastanti che stanno sempre in lotta? Ho pensieri buoni e pensieri cattivi. E il nonno gli risponde: perché dentro di te vivono due lupi che sono in continua lotta, il lupo bianco e il lupo nero. E il nipote gli risponde: papà, nonno, ma io come lo so chi vince dei due? E il nonno gli risponde: vince quello a cui tu darai nutrimento. E quindi in realtà in un mondo di difficoltà, di grandi limiti, di grandi sfide in cui viviamo oggi, forse dovremmo scegliere noi personalmente quale dei due lupi alimentare, quindi se alimentare il lupo nero della lamentela, della frustrazione, delle tristezze che obiettivamente ci sono, però bisogna decidere a chi dare più nutrimento. Io in questo documentario ho voluto invece nutrire il lupo bianco, quindi far vedere le realtà invece belle, costruttive, che cercano di essere positive, cercano di dare un'alternativa rispetto al lupo nero, ecco. Dopo questa proiezione romana, ci sarà qualche forma di distribuzione? Allora, forma di distribuzione vera e propria, nel senso cinematografico no. Io ho avuto modo di andare già giù in Sicilia a dicembre per fare un bellissimo tour, diciamo, direttamente a casa loro, insomma, da loro. Abbiamo fatto 12 proiezioni a dicembre giù in Sicilia. Adesso questo grande evento il 4 a Roma, al Quirinetta. Poi abbiamo già, diciamo, previsto il 22 di marzo a Udine, al Cinema Visionario, il 26 di marzo a Milano alla Cascina Torchiera, e sono ancora in via di definizione le date di Perugia, Firenze e Napoli. Ecco, proprio in questo senso, Ottavia, ci lasci tutti i riferimenti web per saperne di più? Certo, sicuramente c'è una pagina Facebook che si chiama proprio Lupo Nero, Lupo Bianco, dove viene aggiornato continuamente il calendario delle proiezioni e anche, diciamo, ci sono un sacco di consigli utili. Io cerco di postare anche delle cose che possono essere utili al di là del documentario, ma che insomma su cui rimanere aggiornati è molto interessante. Bene, allora ricordiamo l'appuntamento Lupo Nero, Lupo Bianco, viaggio nel gruppo Permacultura Sicilia di Ottavia Nigris Cosattini al Teatro Quirinetta a Roma il 4 marzo. Ottavia, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie mille, a presto a tutti, vi aspettiamo! Okay.